Il punto di Stefano Folli. La scomparsa di Mandela, per quanto attesa, è uno di quei momenti in cui si misura la distanza tra la grande politica nutrita di ideali e la piccola politica degli intrighi quotidiani. È uno specchio utile per tutti, per coloro che da noi ancora credono nella nobiltà dell'agire politico e per quanti invece lo rifiutano con disprezzo perché ritengono che non ci possa essere grandezza nel paese delle caste e dei privilegi. Ma Mandela ha insegnato al mondo che anche le cose impossibili si realizzano quando la volontà dell'individuo è incrollabile. Detto questo, è bene non farsi troppe illusioni. La nostra cronaca ci riporta ai soliti litigi inconcludenti sulla legge elettorale, ma la Corte Costituzionale, piaccia o no, ha gettato un sasso nello stagno. Potrebbe essere l'occasione di uscire dalla paralisi se appena si abbandona la futile discussione sulla non legittimità di questo Parlamento, che invece è pienamente operativo. È il momento di unire insieme le riforme istituzionali e una nuova norma elettorale. Il tempo c'è, perché non si voterà prima del 2015. Ci vuole solo la volontà, quella di cui i grandi uomini sono capaci. Ma dove sono i grandi uomini?